È vero che a quanto pare anche re Erode uccise sua moglie Marianna per gelosia, ma siccome ne ammazzò molti altri, compresi tutti i bambini di Betlemme al di sotto dei 2 anni, come dice Matteo in 2:16, allora il prototipo della gelosia è rimasto Otello, il moro e prode condottiero delle truppe veneziane. Questa croce addosso, Otello, se la continua a portare nonostante mio cugino. Mio cugino Enrico Cavalli, l'autore de I nomi del Cucumis Citrullus nella Riviera di Ponente, un'opera poco nota, comunque mio cugino Cavalli che nel 1934 aveva pubblicato La gelosia di Otello, un pamphlet polemico con le tesi di tal Carlo Alberto Rossi che all'epoca era il critico del Radio Corriere. In questo pamphlet, contro la tesi dominante che vedeva in Otello un geloso inguaribile, mio cugino Cavalli sosteneva che Otello semplicemente era innamorato di Desdemona. Diceva: dove non è amore non è gelosia. E dire che Otello non è geloso nel senso umano è come dire che non ama Desdemona. Non c'è insomma nel personaggio shakespeariano una predisposizione morbosa alla gelosia, ma soltanto amore vero e totalizzante. Sembra che Shakespeare abbia scritto l'opera nel 1604 e che, ispirandosi a varie fonti, abbia collocato gli eventi nella prima metà del Cinquecento. Presumibilmente, peraltro, come oggi, allora non gli potevano mancare fatti di cronaca cui riferirsi. Qualcuno che, malintendendo il possesso di una persona amata, assume atteggiamenti di mera vendicatività che con l'amore non hanno più nulla a che fare, c'è sempre. I nostri giornali riferiscono pressoché con frequenza quotidiana di delitti contro la persona compiuti in nome di un presunto diritto e più ne riferiscono, più si compiacciono del dettaglio vilmente atroce e delle pietose giustificazioni dei protagonisti, più epidemicamente altri delitti si ripetono. Veri e propri delitti contro la persona, peraltro, andrebbero anche considerati i numerosi casi di mala sanità, così come si suol dire, che affliggono da anni il nostro paese. Da quello che muore sulla lettiga mentre il personale sanitario sta ascoltando tutto il calcio minuto per minuto, a quello cui hanno dimenticato pinze e ovatta nell'addome, da chi si trova a combattere con topi e scarafaggi negli ospedali e a chi paga fior di tasse per un servizio sanitario nazionale che, quando va bene, ti consiglia in vari modi estremamente persuasivi di rivolgerti, se hai quattrini, alle cliniche private. Per lunghi anni abbiamo assistito al libero saccheggio delle nostre risorse da parte di politici e amministratori ladri e protervi. Quando sono stati colti con le mani nel sacco sono stati presto rilasciati con tante scuse, e l'unico argomento che i vari governi che si succedono definiscono a nostro favore consiste nel prometterci tagli alla spesa per la sanità, come se ciò fosse garanzia di cure adeguate o di tasse diminuite e non più banalmente della riduzione dell'entità del furto, diciamo. Bene. Fra tanto sfacelo ben coordinato e continuato, mi tocca ora cogliere un raggio di luce, sì. Aspetteremo mesi per un'analisi che pagheremo salata se saremo ancora vivi. Rischieremo la vita ogni volta che entriamo in un ospedale, inventeranno per noi tumori sempre nuovi e bistecche sempre più nocive nel caso avessimo ancora i soldi per comprarle, ma in compenso, potremmo usufruire dello straordinario servizio di sessuologia del Fatebene Fratelli di Roma. Nel caso vale la pena di trasferirsi nella città eterna, senza neppure attendere la decisione sulle prossime Olimpiadi, solo per questo, sì. Si tratta di un servizio per coppie in crisi. Desdemona e Otello, per esempio, no? La prima langue si intristisce perché, come lui torna a casa, bufonchia, si sdraia davanti alla TV, dice: cosa c'è per cena? Oppure langue il secondo e si sente appena sopportato, che so, dalla sua donna in carriera. Insomma, l'amore neppure è un ricordo, l'abitudine si è mangiata tutta la poesia. Basta vedere il tutto in termini di malattia, per l'appunto, e aspettare con fiducia che qualcuno ne suggerisca la terapia. Fate bene, fratelli di Roma, hanno inventato un telefono amico di nuova generazione, quasi un telefono amico tra virgolette, ovvero un telefono amante. Un solerte, ben addestrato infermiere o una sua collega aspettano il giusto orario, quello in cui la coppia è sicuramente in casa, riunita, ma pur divisa nelle singole solitudini, sì, e telefonano recitando la parte di chi attenta alle virtù del coniuge. Dall'altra parte del filo, mi immagino che si abbassi gli occhi e il tono della voce, si dia magari un po' le spalle all'altro, o approfittando dell'ormai popolare doppia derivazione si dica un attimo che cambio linea. La capacità dei medici di patologizzare tutto, di patologizzare il mondo ed espandere l'eventualità del proprio intervento professionale è notoriamente infinita ed insaziabile. I risultati sembrano garantiti. La gelosia fa il suo benefico corso e l'amore si risveglia prepotentemente. Coppie in crisi si ricongiungono con giulebbe di felicità. A meno che Otello, senza bisogno che le USL provvedano ad uno Iago, non ami davvero la sua Desdemona. E non geloso di natura, ma gioco forza di cultura, secondando il parere di mio cugino Cavalli, a meno che Otello non decida di placarsi con le proprie robuste mani. In materia di terapia poi non se ne sa mai abbastanza. Mi ricordo una vignetta apparsa intorno alla fine degli anni 60. Allora c'è Tarzan, il re della foresta, che viaggia nel suo solito modo, appeso ad una liana di albero in albero. Aggrappata a lui c'è la bionda Jane, e il tradizionale urlo di Tarzan risuona in tutta la foresta. A guardar bene la vignetta, tuttavia, Jen è aggrappata ai testicoli di Tarzan. E l'urlo, dunque, più che manifestazione di estrema potenza animale, è l'indice di un male boia. Non avrei mai immaginato che la cosa avesse un fondamento medico-storico. Nel penultimo decennio del secolo scorso, gli psichiatri francesi Bourou e Bourreau, una coppiata di nomi da comica finale, Bourou e Bourreau avevano escogitato una terapia sicura per prevenire alcune crisi di quelle che loro consideravano malati mentali. Così come ai sonnambuli comprimevano i bulbi oculari per guarirli dalla loro malattia, ad altri meno fortunati comprimevano energicamente i testicoli, dicevano che lo shock testicolare facesse miracoli. E nonostante la scarsa notorietà della terapia, credo che tuttora pochi poi lo metterebbero davvero in dubbio. Cerca d'essere serio, vieni giù dal lampadario, ma che modo di giocare questo qua? Lascia stare mamma, se non vuole far la scimmia, per giocare un altro modo ci sarà. Ma Tarzan lo fa, ma Tarzan lo fa. Qui non è la giungla, questa è una città.